il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Sarà una coincidenza, ma nella settimana in cui il Consiglio regionale del Veneto è chiamato ad approvare il terzo piano casa, un provvedimento che intende rilanciare il comparto edilizio, ma che preoccupa per il rischio che qualcuno ne approfitti per rilanciare anche nuove edificazioni, oltre 150 associazioni, comitati, ambientalisti e non solo, invaderanno pacificamente Venezia per dire loro no al consumo indiscriminato del territorio e alle grandi opere inutili e dannose. La terra non ce la fa più, affermano i promotori della manifestazione, ha bisogno di almeno un anno e mezzo per recuperare quello che le viene sottratto in un anno, e il Veneto è una delle regioni più inquinate e inquinanti d'Europa. Con queste parole d'ordine l'associazione e i comitati si ritroveranno appunto sabato 30 novembre alle ore 14 di fronte alla stazione di Santa Lucia. Tra di essi anche Don Albino Bizzotto, fondatore dei Beati Costruttori di Pace, che con il suo sciopero della fame della scorsa estate è riuscito ad attirare l'attenzione dei media e della popolazione veneta, ridando fiato alle battaglie di chi da anni rivendica un maggiore rispetto del territorio. Don Albino, è davvero venuto il momento di dire basta? Non c'è più spazio per la crescita nella nostra regione? Mi pare che ormai tutti quanti siamo attenti a un dato. La terra è in grave sofferenza. È come se ti dicessero, guarda che la casa brucia. Non puoi andare avanti senza far finta di vedere che le cose non funzionano. Quando hanno fatto l'assemblea, la conferenza sul clima a Varsavia, e non hanno raggiunto l'accordo, ma il problema è di una gravità e di una urgenza incredibili. Allora, la terra a che cosa serve? Oggi, per respirare, per bere acqua e per avere il cibo, dove andiamo? E siamo quelli che siamo. Chi parla di un pianeta e mezzo o due pianeti dice una cosa che non esiste. Esiste un solo pianeta. Allora, la Terra è in sofferenza. Non c'è spazio, non c'è posto per il limite, ormai è arrivato a toccare gli estremi. Allora dobbiamo decidere qualche cosa e c'è una grande urgenza. Io devo anche dire che se la terra rimane ancora è soltanto il luogo della grande speculazione di poter ricavare la potenza economica e finanziaria di tutte le attività produttive dell'uomo, e la terra stessa entra dentro al gioco del finanziario, della speculazione, la terra ha finito di dire quello che può per la vita. E siamo nati per vivere, non per diventare ricchi. E allora c'è una grandissima urgenza. E lo stesso con il territorio. Ma se tu hai una popolazione di 5 milioni di abitanti, come il Veneto, e devi dare da mangiare, che cosa fai? Non favorisci la possibilità di ricavare cibo dalla terra che hai? No, noi dobbiamo speculare e cavare soldi. Mandare la distruzione del territorio, da una nuova cementificazione, da vedi piano casa, di cui i sindaci tutti quanti di tutti i tipi sono ribellati per fortuna, vedi le strade, autostrade, vedi tutto quanto a pagamento, per cui indebitiamo il futuro anche di chi nasce in questo momento su opere che non sono dei servizi alla comunità, ma sono soltanto la messa in sicurezza dei soldi di chi investe. Ma non è solo un problema di politica, non è un problema forse di cultura generale anche della popolazione, dei noi cittadini, che forse ha dormito un po' troppo e appunto deve un po' risvegliarsi. A cosa punta ad arrivare questa manifestazione che voi fate? Punta ai politici, punta ai cittadini? Alle due cose, perché hai ragione tu, il terreno più appetibile è il terreno fabbricabile, perché è quello che rende di più. Questo è un concetto diffuso, non è un concetto soltanto dei vertici politici, è un concetto diffuso, è verissimo quello che dici tu. E quindi vuole le due cose, che la prima cosa però è che cominciamo a, a rivedere il nostro concetto e il nostro atteggiamento nei confronti della terra. La terra non è una cosa da adoperare come vogliamo, non è una discarica, non è una miniera da dove tirar fuori tutto quello che vogliamo, ma la terra è un organismo vivente che fornisce gli elementi della vita a tutti gli esseri esistenti, compreso l'uomo. Lavorare contro la terra, trattare male la terra, vuol dire trattare male le persone. Questo ancora non ci siamo arrivati. Stiamo facendoci del male con le nostre mani. Stiamo distruggendo le possibilità di vita. Con un inquinamento dell'aria sempre più grande, tanto che Padova è messa tra le città più inquinate d'Europa per quanto riguarda l'aria. Con l'acqua non in sicurezza, per cui il territorio è fragilissimo. Con discariche sopra la più grande ricarica d'acqua d'Europa, come a Vianelle vicino a Tiene, dove il sindaco e la giunta intera di Marano Vicentino stanno protestando, e lì abbiamo 800.000 persone che dipendono da quella ricarica d'acqua là, per i nostri rubinetti, l'acquedotto. Allora io dico, qua siamo di fronte a veri e propri delitti ambientali, però io non voglio caricare sul negativo. Voglio caricare sulla responsabilità e sul positivo, e faccio un invito grande a tutte le persone, ma anche alle comunità ecclesiali. Non possiamo continuare a fare finta di non vedere l'urgenza e l'emergenza nella quale ci troviamo. E per cominciare dobbiamo dire se è no al mattone e no al cemento, come viene detto in tutte le occasioni possibili e immaginabili, anche dei vertici politici. Facciamolo! Con molto rispetto, ma anche col desiderio di dare una risposta positiva a quello che tutti quanti cerchiamo. Ma che cosa cerchiamo? Ecco, torniamo su questa domanda a tra poco, facciamo un attimo di pausa. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. Gioia non consente alla mente di dormire, è quasi l'alba, io ti sento respirare, nella penombra il tuo viso affilato riposa, ti sei stancata per darti, stancata per me, ti ho cercata più di ogni cosa al mondo, tu adesso dormi qui al mio fianco. Ad occhi chiusi sto rivedendo immagini del nostro amore, la tua auto, i concerti, i distacchi sofferti, le sedie del soggiorno, la gioia immensa del ritorno, il tuo stereo in cantina, la tua nuova cucina, il profumo di quel pane, le feste del tuo cane, i tuoi quadri astratti e noi così attratti da noi, così vicini ora a noi. Si sveglia la natura, tra poco anche la città, ma io immobile resto per non far rumore, tu ti giri su un fianco e io riesco a vedere il tuo viso perfetto che sfiorare vorrei, ti ho aspettata più di ogni cosa al mondo e adesso tu sei qui al mio fianco, qui al mio fianco, ad occhi aperti sto rivedendo del nostro amore, la tua casa, i tuoi dischi, le camminate nei boschi, i funghi velenosi, gli amici tuoi gelosi, i tuoi libri sull'India, la sognata Finlandia, le tue continue lotte, i semafori di notte, in tutti i ritratti. E noi così attratti da noi, così vicini ora a noi. La tua auto, i concerti, i distanchi sofferti, veder nascere il giorno, la gioia immensa del ritorno, il tuo stereo in cantina, la tua nuova cucina, il profumo di quel pane, le feste del tuo cane, i tuoi quadri astratti e noi così attratti da loro. Una cosa sola ora non sono, immagini di questo nostro amore. Torniamo in linea con la trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando con Don Albino Bizzotto di una manifestazione contro la cementificazione per la salvaguardia del territorio che si terrà sabato 30 novembre a Venezia. Ecco, la cementificazione forse è il primo problema del Veneto. Voi avete raccolto alcuni dati in questi mesi e anche qual è poi la vostra proposta, che cosa viene chiesto da questa manifestazione? Ripeto che il primo dato è che il 20 agosto la terra ha finito tutte le energie vitali che aveva per sostenere i nostri consumi, i nostri rifiuti e le nostre produzioni. Il Veneto è una delle regioni nelle quali la cementificazione in proporzione è stata la più potente e la più veloce. Negli ultimi 20 anni abbiamo perso qualcosa come 38 ettari al giorno di terreno coltivabile, sia per abbandono sia per costruzioni di cemento e asfalto. Allora è stato un crescendo dagli anni 80 in poi. Pensa che dai 72 milioni di metri quadri all'anno di perdita di suolo agrario utilizzato degli anni 80 siamo andati ai 97 milioni di metri quadri anno degli anni 90 e 182 milioni di metri quadri anno dal 2000 in poi. Allora, tieni presente che noi abbiamo uno stile di vita che ha bisogno di 6,43 ettari pro capite anno di terreno biologicamente attivo, ed è il Veneto ha la biocapacità di 1,62, vuol dire che noi abbiamo un deficit di impronta ecologica, abbiamo un deficit di 4,81 ettari a testa. Allora, fino adesso abbiamo avuto i soldi e le altre cose che ci hanno permesso di comprare dagli altri i prodotti e avere questo tenore di vita. Ma d'ora in poi la situazione è cambiata, ma è proprio radicalmente cambiata. Allora, che cosa pensiamo? Di favorire la sovranità alimentare, quindi fare in modo che il terreno abbia da rendere, o invece vogliamo privarlo ancora? Perché in programma in questo momento c'è una colata sia di cemento sia di asfalto, con una serie di progetti, sia pubblici, in project financing, cioè i privati ci mettono i soldi, ma la regione risponde se non bastano i servizi che sono stati programmati per 30-40 anni. Ci troveremo con ospedali che dovranno tagliare sui servizi sanitari perché il contratto sui servizi esterni rimane fermo, immutabile. E ci troveremo anche con le strade che, se non saranno pagate dai flussi di macchine che ci saranno, la regione deve integrare, vuol dire dare qualcosa come 40 miliardi di debito per il futuro anche ai bambini che nascono. Io credo ci sia una responsabilità, primo sull'ambiente. Il territorio deve servire a vivere, non mettere in sicurezza i soldi. Secondo, una responsabilità verso le future generazioni, perché se non garantiamo la possibilità ai più giovani di lavoro per un verso e di possibilità di progettare, programmare sul loro territorio la loro vita, noi facciamo una grande ingiustizia, credendo di mettere via soldi per loro, impediamo a loro di vivere il loro tempo. e questa è una responsabilità sulla quale tutti quanti a parole vogliamo bene i figli, e quando si tratta poi di fare le scelte fondamentali per la vita siamo tutti in arretrato. Lo dico perché c'è anche ora troppa gente che crede di avvantaggiarsi perché è riuscita a fare gli affari, è riuscita a speculare su quel poco che ha. E allora dobbiamo aiutarci su questo e scoraggiare questo tipo di cultura, perché è una responsabilità, perché il pianeta, ma il territorio, la natura, la terra ha una sua natura, ha un suo linguaggio e ha una sua grammatica. Noi crediamo di adoperarla perché abbiamo sempre fatto fino adesso, fino a quello che abbiamo voluto, ma la terra si ribella se la strozziamo, se non permettiamo di esprimere la sua realtà. E allora dovremo rivederci un pochino con la responsabilità, ma anche, secondo me, essere contenti e ringraziare il Signore. C'è un aspetto teologico dentro questa cosa qua che nessuno mette in vista. La terra appartiene o non appartiene alla creazione? E se la creazione è continuata con la responsabilità dell'uomo dentro al quale Dio continua a operare, perché rispondiamo al suo progetto che comprende tutte le persone ma anche tutti gli esseri, perché anche la creazione partecipa a questa gloria dei figli di Dio, come dice Paolo. Vogliamo capire che Dio è presente nelle coscienze delle persone, è presente nella vita delle piante e degli animali, ed è presente anche in tutti gli elementi delle rocce del creato che abbiamo, con una biodiversità straordinaria, con una bellezza, una varietà incredibili, e con la responsabilità di mantenere, tenere in piedi questo paradiso perduto, ma da ripresentare e fare in modo che la vita abbia da splendere, ma con il rispetto e con, scusami, ma cominciamo ad amare la terra. Come c'è la dichiarazione dei diritti dell'uomo, io credo sarebbe bello arrivare anche alla dichiarazione dei diritti della terra. Ecco, con questo invito ad amare la terra dobbiamo chiudere questa intervista, non senza però ricordare che la manifestazione è sabato 30 novembre alle ore 14, si possono trovare anche dalla stazione di Santa Lucia di Venezia, e si possono trovare informazioni sul sito internet dell'associazione www.beati.eu, come Europa. Grazie Don Albino. Grazie a voi, e ci troviamo a fare un momento di autocoscienza, di volontà collettiva, di rivedere noi dentro al territorio, ma chiedere anche una revisione di chi ha la responsabilità della programmazione. Grazie. E per questa settimana è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima con il Quadrifoglio. Riascoltateci sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.